la Repubblica Russa, Norvegia e compagnia cantante, insomma tutta quella zona dell'est rispetto agli altri paesi, perché praticamente arrivano sempre loro qua in altre bande, e tu arrivi anche a loro, ovviamente è reciproca la questione, perché ho fatto dei controlli tramite anche dei ricevitori di quelli che mettono online, e ho notato questa cosa che conferma questa affermazione. Ti risulta anche a te, Marco, scusando Roberto un attimo. Ma Gianfra, il segnale tuo adesso non so, io mi trovo diciamo verso Viale Italia, è crollato repentinamente, vabbè, sono un po' fra i palazzi. Dimmi intanto se mi senti bene tu. Sì, non mi ero accorto che stavo andando con un watt praticamente, un watt e mezzo. Adesso ho aumentato. Sì, ti sento in ogni caso, io ti sento benissimo. Non dovrei avere particolari problemi per tutta la città. Hai capito l'interrogativo, Marco? Sì, QSL. Allora, ecco, magari se puoi aumentare un po', così rendi più facile l'ascolto, visto che sono in movimento in macchina e sai che c'è parecchio QRN, QRM, addirittura delle macchine, o il caos che c'è in città, come ben sai. Ma allora, io avevo avuto piacere di parlare con uno dei grandi ricercatori scienziati italiani, Mimmo Martinucci, e già anche lui era a conoscenza di un lavoro che era stato fatto da un altro scienziato radioamatore, del quale adesso non ricordo il nominativo, ma sicuramente ho nella catasta dei documenti delle cose che scrivo e che poi stampo, perché poi non me le ricordo e vorrei guardare, perché ho pochissima memoria, io sono veramente smemorato e devo scrivere o stampare le cose, però conservo. La cosa buona che ho è che poi questi documenti li conservo e ogni tanto, quando ho voglia, dopo anni e anni, vado, riguardo, rileggo e mi dico, ah, hai visto chi era? E vabbè, comunque è stato fatto un'analisi di migliaia e migliaia di log. Questa analisi ha portato a una sorta di mappatura di una parte dell'Europa, dove noi come zona del nord Sardegna, questo ne avevo parlato con Antonio Bioglia, ne avevo parlato con lui allora, ma sto parlando di tempi che furono, andavo in giro con i Bermuda, questa ricerca e questa analisi, ormai utilizzando i software, caricando tutti i vari software, caricando e pertanto vedendo i collegamenti anche con fenomeni di propagazione, con le MUFA 144, perciò fenomeni di sia di esporadico, sia di troppo, sia di fai, o comunque altre varie tipologie di fenomeni propagativi, ha portato a questa mappatura dove la parte del nord Sardegna è, sfortunatamente per noi, Sassari, e tutta la zona quasi sino a Olbia, o comunque tutto un pezzo della Sardegna nord, che va sino a, quasi verso il centro Sardegna, è identificata come negativa dal punto di vista della trasmissione della onda radio. Questo probabilmente, forse per il sottosuolo, chissà per quali altri reconditi motivi, ma comunque rispetto a tante altre zone dell'Italia, ad esempio, che era l'analisi più immediata che era stata fatta, risultava particolarmente svantaggiata dal punto di vista della possibilità di effettuare collegamenti indipendentemente dalla frequenza che viene impiegata. Io ti dirò che ho potuto poi verificare, avendo un log da migliaia e migliaia, da svariate decine di migliaia di collegamenti, che questa cosa è veritiera, perché mi è capitato tantissime volte di chiamare delle stazioni che erano, come so, in Australia, e a me non sentirmi per niente, nonostante impiegassi mega antenne, mega apparecchiature, e magari collegare un corrispondente che era in Veneto, ad esempio, che facilmente viene passato, noi veniamo sorpassati da loro, dai veneti, dalla zona 2 della Lombardia, eccetera, con un'antenna modesta e con una stazione modesta, capito? Questo perciò è una cosa che ho riscontrato, e posso confermare che questa analisi era veritiera, Gianfra, dal punto di vista, mentre quello che tu dici è segnali prevalentemente facilitati a est, io ti dico che questo non lo riscontro, mentre riscontro più facilmente segnali che prediligono più Sud America, Gianfra, che la zona quasi seguendo la rotta degli Alisei, dicevo, piuttosto che andare verso est. Sì, Marco, vuol dire che la cosa è stata così. Io ho parlato con Antonio anch'io qualche anno fa e mi ha confermato che c'era questa cosa verso est, una sorta di canale preferenziale quasi. Comunque è così. Riprendi Robert. Un attimo Robert, scusa un attimo Robert. Piuttosto invece c'è un altro aspetto che è diverso, che è quello invece degli esporadici. Allora invece se mi parli solo di evento esporadico, allora ti dico che questo può essere veritiero. Cioè a dire, i tubi che si creano generalmente invece si creano preferibilmente attraversando la zona dell'Ungheria e scorrendo in fondo sino ad arrivare alla Russia bianca, e difatti io ho collegamenti fantastici, comprese le VHF, utilizzando quel canale lì, parliamo di esporadico, non di fenomeni di propagazione normale o comunque di una condizione standard, se vogliamo utilizzare come espressione di propagazione. Vabbè, comunque la cosa è ancora da verificare. Riprendi Roberto. Sì, no, stavo ascoltando con molta attenzione, informazioni molto interessanti. No, la domanda che volevo fare a Marco, visto che c'è la possibilità di utilizzare con meno difficoltà due antenne paraboliche, una in trasmissione e una in ricezione, come mai vuoi fare questo discorso solo a livello sperimentativo e a livello di prestigio di utilizzare la stessa antenna in trasmissione e ricezione? Perché è una cosa molto, ma molto difficile e molto scrupolosa, cioè ci vogliono parametri talmente influenzabili che basta sposti di un millimetro e cambi completamente il rendimento dell'antenna, utilizzando quell'antenna elica che ha detto tu. Ci sono troppi fattori che influenzano il rendimento, è una cosa molle, se riesci a farla sarà una cosa spettacolare da mettere nei Guinness dei primati. Ma guarda Robè, questo più che altro è dettato dalle problematiche di trasporto, perché siccome mia intenzione è fare comunque delle attivazioni particolari e dover trasportare due parabole e due cavalletti, due strutture, diventa sicuramente più impegnativo, e per quello è cercare di contenere e di ottimizzare i pesi e il materiale da trasportare, capito? Solo ed esclusivamente per quello e non per altro, perché se questa cosa funziona e funziona bene, anche se ho una piccola perdita di qualche dB, no, di guadagno col ricevitore, mi va comunque sempre bene. A questo punto farei la stessa cosa anche a casa, cioè smonterei una parabola, ne userei una sola, perché l'altro spazio per l'altra parabola lo utilizzerei per fare dell'altra attività, perché comunque sai bene che di tetto ne abbiamo uno e dobbiamo cercare di organizzarlo e di gestirlo facendo tante cose, proprio di quello che ha detto Gianfranco, tante passioni, tante frequenze, tante cose, tante antenne, e allora cercare di fare sempre le cose al meglio, cercando di contenere un po' tutto, capito? Tutto lì, solo per quello, Robè. Quindi anche per questioni di facilità d'uso, mobilità, più che altro mobilità, no? No. Ci sono un sacco di parole adesso per dire, ci sono quegli esperimenti che stanno facendo, io parlo sempre TV, non parliamo di cose, trasmissione, parlo di ricezione, con le parabole, ho visto quelle che esistono già un pochettino, con le toroidali che hanno delle rese allucinanti, con diametri molto inferiori a una paragonabile, diciamo quelle che ho utilizzato tu, quelle offset, c'hanno delle rese, c'hanno una controparabolina davanti, una specie di schermo, non so se si può utilizzare anche per il discorso che stai facendo tu. Ma non ho capito, ma quella che mi ha chiamato antenna gregoriana, quella lì per caso, io di esperienza di TV non ne ho niente, io sono, pensa che non ho, non voglio neanche capire come funziona e si programma il canale della televisione di casa e delle varie TV, niente, perché impiego il tempo e la passione, le cose sono già impiegate da altre, quando per me devo andare 1, 2, 2, 3, 3, 5, canale 5, 6, Italia 1 e via a seguire, vabbè, sulle TV proprio non ho, non, non, non, non c'è interesse, non ti so dire, ma questa che mi stai dicendo così a naso mi ricorda un po' l'antenna gregoriana, che in certi casi viene impiegata sempre anche per l'attività Reach & Trans, sempre anche per Q100 K. Sì, certo, bene, gregoriana autoradiale, c'hanno lo schermo il riflettore parabolico classico, che c'è tu davanti dove attacchi, dove c'è il braccio, questo altro braccio c'è un'altra parabola in posizione opposta, uno schermo che aumenta, un doppio fuoco in parole proprie, sono le parabole a doppio fuoco e hanno un guadagno di gran lunga superiore alla pari misura di quelle che utilizzate normalmente. Guarda, so che io in un primo momento, un anno e mezzo fa, quando dovevo incominciare a pensare cosa comprare, cosa fare, avevo pensato anche a quell'antenna lì, però ho avuto modo di leggere, vedere e sentire anche qualcuno, e avevano avuto un bel po' di problemi, cioè comunque trovavano difficoltà per portare l'antenna in risonanza. Le dimensioni sono normalmente di una parabola che è la metà di quella di dimensioni che impiegavo, che è tipo quella che ho io, ad esempio, perché è stretta, è un po' più piccola, però ha dato parecchie controindicazioni. Difatti, se tu vai in giro a frugare, vedi un po' di tutti quelli che fanno attività su satellite, sono pochi quelli che impiegano la gregoriana. Qualcuno l'ha impiegata così per uso portatile, perché è molto più piccola, è molto più maneggevole da portare, però ho anche visto che risultati dà, cioè i segnali sono veramente notevolmente più bassi rispetto a una parabola discoidale e rispetto soprattutto al classico LNB e a sistemi con la TX, con antenne POTI o altro. E questo vedo che non ha dato, evidentemente, se anche tutti gli altri, chi l'ha provato poi ha mollato ed è passato a un altro sistema, evidentemente non funziona bene, o perlomeno non dà risultati migliori. No, le vedo molte volte nei trasferimenti, però non usano, diciamo, su altri tipi di frequenze, le utilizzano però orientate in direzione a punto a punto. Ho visto che le utilizzano nei trasferimenti, sezioni televisive, broadcasting, le usa, qualcuno le usa, diciamo, quando hanno problemi magari di spazi e cose del genere. Due volte Gianfranco non riprende, no. Evidentemente sta concentrato con qualche cos'altro, magari c'è della pasta al forno che sta scaldando. E Robè, sai, il discorso è completamente diverso da una emittente TV a me, per dire. Emittente TV, se deve spendere 100.000 euro, li prende e li spende, perché ci sono gli sponsor, ci sono quelli che pagano pubblicità, eccetera, che problema c'è? Invece di usare, io uso 2 watt, quelli sono 2.000 watt, 500 watt, 300 watt, 800 watt, trasferimenti senza con power a go-go su quelle frequenze, su quelle frequenze anche abbastanza pericolose, fra virgolette, per essere gestite con quelle potenze lì. Un appassionato radioamatore non può certo fare quei tipi di cioè, anche perché non saprei che cosa ne fai, anche se metti un amplificatore a 100 watt sull'Aila, vai eccetera, l'Aila dopo che arrivi oltre 9 più 10 ti sega e non parli con nessuno, è inutile, capito? Sì, se ti balla, come detto tu, non devi superare, per cui normalmente le potenze ho visto utilizzano dall'1 al 2 watt. Vediamo Gianfranco, forse si è allontanato un attimo, però ho sentito che forse stava parlando un attimo sopra di te. Avanti Gianfranco. No, stavo parlando sopra Marco, le volevo solo dire che non ho ripreso perché ho sentito sotto qualcuno che chiamava, forse. Allora, c'è qualcuno ogni tanto quando parli tu, Gianfranco, sento il colpettino di portantina, non ti dà disturbo, però si sente. Adesso ho sentito un Santiago 9, avanti, chi vuole entrare? Chi sei avanti? Tu non vuole entrare. Di nuovo a te, Mike, Marco. Sì, QSL, dai. Io però vi devo salutare, devo chiudere, devo scendere, sono arrivato già da un po' a destinazione. Magari se riesco riprendo dopo, se riesco dopo cena. Va bene, dai, grazie alle quattro chiacchiere, ciao Robè, ci sentiamo prossimamente, ciao a Gianfranco. Marco Scorpiano, QRT, ciao, antenna a te Robè, ciao, e saluto a Claudio che non so se è rimasto qui a seguire il QTC. Vabbè, ti saluto, è sempre un piacere ascoltare. Ok, alle prossime, vai Gianfranco per Marco. Sì, ciao Marco. alle prossime, buona serata. Robè, poi quell'affare ti è arrivato, l'hai provato, funziona, non funziona? Guarda, ho avuto qualche problemino in officina, non mi sono neanche potuto avvicinare, infatti devo mandargli il messaggio, farò di tutto per sabato mattina, è arrivato dall'altro giorno, però purtroppo dopo l'officina mi sono anche trattenuto, ho fatto delle cose e sto pensando a cose più importanti. Sabato mattina mi sono promesso di fare una capatina giù a cosa, a muro, se farmelo dare da cosa. Aspetta, vediamo se c'è Claudio, se deve salutare a Marco. Nisla, ok, no, mi dispiace anche per te Mario, non ti voglio tenere in apprensione, però non ti preoccupare. Appena è possibile, Gianfra, facciamo tutto il da farsi. Così sono curioso anch'io di vedere se questa famosa SDR Sharp riusciamo a farla attivare. No, attivare si attiva, evidentemente manca qualcosa che lo impedisce di farglielo vedere, tutto lì, una questione di drive o che non vengono accettati, o ancora peggio che ci manca qualche quegli applicativi lì per poterla gestire. Comunque, vabbè, io devo dire che problemi sul mio non ne ho avuto, l'unico problema che c'è è che non servono a niente. sarà che sono io viziato, ma è così. No, questa delle chiavette, a parte qualche rara eccezione, rimane una pia illusione rispetto veramente alla roba che può gestire i tantissimi disturbi che ci sono in aria. Sì, assolutamente d'accordo, diciamo, come tutte le cose, come tu ascolti una radiolina e poi ti prendi un impianto serio per ascoltare la stessa musica, i rapporti sono quelli, sicuramente. Quello che ti ho detto mi ha messo lui, quello HDR XDR e poi questo SDR Trueno, che tu hai detto sono delle altre applicazioni, queste vanno meglio di SDR Sharp normale, perché lasciala perdere, il CDR ormai è superato, infatti me ne ha messo due di SDR Sharp, c'è il tipo vecchio, mi ha scritto vecchio, poi new, il tipo nuovo, e poi c'ho queste due HDR e HDSR e c'ha un simbolo particolare, un'icona, e poi c'è questo SDR Trueno, che non lo so, lui utilizza queste comunque. Sì, è un applicativo che ha fatto uno spagnolo, con qualche implementazione, ma poi è anche difficile da scaricare perché ti chiede la password su certe cose, insomma è un po' sono quelle cose che lasciano un po' il tempo che trovano, ecco. Diciamo sono per arrangiarsi un pochettino anche per comprare per Sirius, che i programmi costano esagerato, no? Perché l'apparecchietto lì ti permette magari ascoltare qualcosina spendendo poco. No, quella di Marco me l'ha fatta vedere, quella che ieri stava lavorando col satellite, non l'ho pagata neanche eccessivamente, pensavo costasse molto molto di più, però posso dire una bellissima grafica anche come funzionalità eccetera eccetera, era veramente eccellente. Cos'è, la linea ELAD o quella Perseus? No, non è Perseus, ha detto un metodo che forse va anche per percettibile simiglio, riesce a fare delle cose, forse è più aggiornata del Perseus, non mi ricordo, me l'ha detto ieri, non so se ci sia ancora Marco per chiedere conferma di cosa si tratta. È una scatola tutta nera comunque, più grande di quella che mi hai dato tu, il doppio, dai. Vabbè, ce ne sono talmente tante oramai. Ad esempio quello che ho io in radio è abbastanza grande, molto grande, come cioè molto grande nel senso, immagina un libro tipo quelli pocket, più o meno le dimensioni sono quelle, o di tre pacchetti di sigarette, dai, un'altezza di 3 cm, è una scatola in plastica che ricopre una successiva scatola in alluminio. Ed è sempre andato molto molto bene, anche perché c'è una velocità di analisi micidiale. Sono ricevitori più che altro usati per la scoperta, ecco, per individuare subito qualche segnale nelle vicinanze che arriva forte, pressoché istantaneo, da 0 a 50, è una cosa micidiale. Per gli altri io poi, ripeto, c'ho tre, oltre a quello di ho tre apparati che possono fare la stessa cosa in maniera un po' ridotta. Comunque sono tutti touchscreen, tutti con funzionalità di analizzazione di spettro. Oramai il futuro è quello. Quindi vabbè, c'è tante di quelle cose da fare che ti verrà difficile farle, Roberto. Sì, ma ancora devo mettere, altrimenti mi stavo parlando proprio con Claudio, con Fabrizio, con Marco, mi sto facendo consigliare dagli esperti, diciamo. Adesso subito l'antenna, subito il dipolo dobbiamo mettere su con Claudio, poi se vengono anche Marco e Fabrizio a darci qualche dritta anche loro, visto, soprattutto Marco che è un professionista nel settore delle antenne, e poi devo prendere con un'altra antenna un po' più performante per le VLU, ho già parlato con qualche persona, probabilmente si riesce a trovare qualcosa. Come si chiama il tuo, dimmi il tuo apparato, che magari avete lo stesso con Marco. Quali? Perché qua ce ne sono solo in HF 4, tutti sono datati 2020. No, no, parlando della scatoletta mi sto riferendo. Ci sono, se mi volete ci sono. Se avete terminato i discorsi satellitari. Sì, è andato via da qualche minuto, infatti ti ho rilanciato poco fa per salutare a Marco, è andato via. No, certo che ci fa piacere, ci batterebbe poi. Agli amici non nulla si nega, dai. No, stavo dicendo a Gianfranco che adesso dobbiamo sistemare con l'amico Claudio qualche cosina per cercare di farci sentire. No, stavo dicendo Gianfranco, quella che c'è tu, la scatola, che cos'è che manca? Win Radio, Australiana. Tu mi hai rovinato tutto, Robè, io devo far pagare il biglietto a Claudio, e invece ha detto avanti. E allora Claudio, oggi era bella la giornata, non si può lamentare. No, era bella, ma non ho fatto niente, no, ti è uscito poco fa, sono tutti spaventati, non è questione di spaventare, è questione di rispettare il dialogo che hanno i corrispondenti in certe circostanze. Se una persona non è preparata, sta lì in mezzo, appunto rovina il questione, nel senso che qui non si capisce niente. Se uno invece è preparato, come voi tre, parlate di un, affrontate un dialogo nella quale nessuno può intervenire, è chiaro che uno rimane all'ascolto come ho fatto io. Tutto qua. Molto bene. Sì, bellissima giornata, ma non ho fatto assolutamente niente, me l'ho preso a riposo. Sono andato a ordinarmi un po' di materiale per lunedì, che appunto i muratori hanno bisogno di materiale e basta. E poi sono tutto il giorno a casa cazzeggiando. Vai, Roberto. Una cosa prima che mi dimentichi, questo cos'è, nuovo? Nuovo che cosa? Quello microfono. Ah no, cazzo, che scemo, non l'hai manco ritirato, ma che scemo. Oh, me l'ha dato, però non l'hai ritirato. Ce n'hai ancora due, oramai il mio ufficio era a te, arriva tutto a te. Quindi no, passerò domani a ritirarlo. No, questo è il 60 vecchio, sto andando col 140, l'MC60. L'altro invece, poc'anzi, quando sono entrato ero col 430 e l'altro MC60 è quello che è arrivato da te. Sono sventiato, lei ha detto una grande fessina, lo devi ancora ritirare. Ma tu l'hai provato comunque con Fabrizio, cioè Fabrizio l'ha provato con te. Sì, abbiamo fatto le prove, stamattina io, Fabrizio e Marco, e ottimo microfono, va benissimo, ma l'ha fatto diventare un 60, non è più un 50, quello c'è il circuito di preamplificazione all'interno uguale al suo. Sì, sì, infatti metto quello, gli ho messo il circuito, l'ha riposizionato all'interno. Di nuovo a te Gianfra. Sì, ogni tanto c'è un flashback e mi ricordo qualche cosa che mi avevi chiesto. Riguardo a quel film che mi chiedevi se era recente, mi riferivo a Vita da Carlo, che con tutte queste cose non sono ancora riuscito a vederlo. Quello lì era quello che ti volevo dire, robe che mi avevi chiesto. Sì, sì, è quello l'ultimo, del 2021, sì, non l'ho visto, non so se sia bellino, dice, non so se sia un film comico, se sia un film serio, non ne ho proprio idea. Nemmeno io, perché sta diventando una cosa impossibile, perché sono impegnato mattina e sera, anzi tra poco gira, ne approfitto e ci sentiamo un po' più tardi magari, perché non devo fare un'altra cosa, sono incasinato in una maniera micidiale. e quindi mi assento, ti lascio con Claudio, là. Claudio, a te. Che Claudio si è allontanato, vabbè dai, io rimango ancora un po' acceso, vediamo, tanto non ho niente da fare, Luci. Anzi, ne avrei tante, ma non a giugana, detto in parole semplici. Tengo acceso, poi mi chiameranno a mangiare, poi dopo eventualmente ci sentiamo più tardi se coincide con te Gianfranco. Vediamo se Claudio rientra. Oggi stranamente non venisci, ora no, tutti in ascolto, non lo so per quale motivo, che non vogliono entrare. Perché a molti non le piacciono queste divagazioni, capito? In queste troppo tecniche. Quindi c'è anche quello, ecco. No, sto pensando a quello che metto di quel posizionatore che c'è tu. Da tu c'è la commutazione, l'alimentazione per muovere la parabola gliela vedi dal televisore. Sì, sì, perché assorbe pochissimo. Non solo alimenta, il motore alimenta anche, perché sul motore ci sono altre due uscite LNB. Quindi puoi mettere due LNB e gestirli ugualmente col motore. Perché dovrebbe aumentare anche le possibilità di utilizzo dei canali. Allora tu probabilmente stai utilizzando solo il cavo d'antenna, confermo? Sì, sì, solo il cavo d'antenna. Che comunque deve avere anche una bella alimentazione, cioè 12 volt, a volte raggiunge anche qualcosa in più, i 15. E gestisce tutta questa cosa, sia LNB sia motore, un solo cavo. Sì. Allora, quello lì si chiama, quello che gestisce tutto, è un sistema brevettato, hanno fatto degli italiani tra l'altro, il DISE, che si chiama, esiste diciamo dagli anni, fine anni 90, una cosa del genere, utilizza lo stesso cavo di antenna, riesce a dare i 12 volt per alimentare il coso, poi c'è 22 kHz per commutare orizzontale e verticale per alimentare. L'unico problema è che c'è il problema di corrente, non riesce a avere, cioè, mi sembra il limite di 1 ampere, non sbaglio, 1 ampere e mezzo, non riesce a passare più di quella, per cui è limitata la posizionamento delle antenne, diciamo dopo un certo numero di fino a 90 centimetri, dai, anche al metro, se non ci sono zone molto ventose riesce ancora a movimentare l'antenna. Era un coso che aveva inventato la Stambo tanti anni fa, brevettato, una tecnologia italiana veramente all'avanguardia all'epoca, e l'hanno copiata tutto il mondo. Con la roba lì utilizzi lo stesso cavo di antenna per alimentare e commutare sia la posizione, alimentare il posizionatore, diciamo il motore, e commutare orizzontale e verticale. È un sistema molto molto efficace. No, io pensavo avessi un altro sistema che ho ancora io da parte, infatti me lo tengo bello stretto, è un motore che c'è un posizionatore esterno a cavi, naturalmente alimentato con il coso per muovere questo motore, c'è un display, c'è una specie di scatolina, chiamiamola, con un indicatore in gradi digitali, c'è scritto S e O, poi ci sono i tastini che ti sputi, c'è anche un telecomando, fa andare a destra e a sinistra. Quello è veramente una bella cosa, prima di utilizzare questo sistema che ho adesso, che serve per motorizzare le antenne più grosse, naturalmente il pistone o quello a cardano, però ce l'ho ancora ed è molto bello, perché tutto l'indicazione dei gradi è in digitale, c'è un display digitale, poi ci sono i limiti, ti imposti i limiti est e ovest, c'è il telecomando a destra e a sinistra, ed è veramente bello, senza bisogno di montaggio popolare, perché su questo motore c'è già una specie di staffa, diciamo di un supportino già con l'inclinazione calibrata per il montaggio, cioè per seguire il polo, diciamo l'arco polare dei satelliti. Sì, non sembra che non riprenda nessuno. Niente. No, ieri mi sono un po' divertito invece in HF, iniziando dai 180 a salire per vedere se arrivavo in alcuni paesi. Ho iniziato piano piano da Roma, e a Roma non c'avevo problemi. Poi sono passato in Olanda e anche lì stessa cosa. Da Olanda sono saltato nella Repubblica Russa e anche di lì mi è andata bene. Tutto tramite ricevitori remoti per fare questi test, anche se comunque le antenne secondo me sono da da ripulire, perché così come è successo su questo motore, cioè, c'è moltissimo ossido di quello che si deposita, quello bianco, che poi si incolla dappertutto ai PL, eccetera, non riesce più a toglierlo, deve rompere tutto. Quindi anche di lì ci vuole una bella manutenzione. Se no ci mette poco, quando non c'è manutenzione le cose decadono con una velocità della luce. Non dirlo a me, cazzo, ne ho cambiato mi pare 4-5 di attuatori di quella parabola, della fracarro, di quella piccola, ti durano un paio di anni, 2-3 anni, questo l'ho installato a me, mi pare a giugno-luglio, una cosa del genere. Però se lo guardi esteticamente sembra buono, l'altro poi tutto dentro, l'interno, la ruggine, insomma messo cuffie, tutto in modi possibili e immaginabili, però l'acqua quando te ne entra dentro marcisce tutto e non c'è niente da fare. E vediamo se è rientrato Claudio. Sì, sì, scusate, è arrivata mia figlia, qui mi sono dovuto allontanare. Continuate, già sono qua. Eia, poi parlando del discorso di antenne, tu per le VLU cosa c'hai? Antenne dedicate sia per una per l'altra fremanda oppure ne hai una unica bimanda? Hai chiesto a me, Roberto? Sì, sì, a te, già. No, io devo andare, c'ho due direttive autocostruite che sono monobanda UHF e poi c'ho una 510 riparata da poco, ho due X300 e poi cioè in tutto credo che dovrebbe essere 5, poi c'è anche una X200, poi cosa c'è? Poi c'è qualcosa d'altro, non me lo ricordo, poi c'è un'antenna speciale per la DSB, che anche quella da controllare a proposito. E niente, questa antenna anche che devo mettere per l'Inmarsat, sono già un anno tentando di metterla e non ci riesco. Adesso per di più la metà segata al gatto, vuol dire che ci metterò il gatto come antenna. Arrossi, gli dai un paio di kilowatt e li fai a rotto, sto gatto arrosso. No, ti ho fatto questa domanda perché io ho quella piccolina, quella che mi ha dato Claudio, però sinceramente non la vedo tanto performante per recitare quel ponte che è di Monterraso, ho paura che non ce la faccia, infatti tutti mi stanno consigliando quella 510 che dice che è un'antenna molto ma molto più efficace, eccetera. E poi c'è questo amico, quello che ho preso con la roba con radiogoniometro, altri tipi di cose, dai, le antenne. Cioè, questa antenna mi ha mandato la foto nuova, costruzione eccellente, all'epoca costava 600.000 lire questa antenna, nuova in scatola, della RAC, una direttiva, non so quanti elementi, sembra in ottone come costruzione, talmente bella, piena, robusta, tedesca, la conosci questo marchio? Sì, l'ho sentita, però rimane sempre il punto, tu cosa vuoi fare? Perché io ho tanti apparati anche che sono tutti singoli, tra l'altro c'ho un solo, no, anzi bugia, c'ho solo due bibanda, no, c'ho solo tre bibanda, l'altro, diciamo tutti gli altri sono tutti quelli professionali, che ne ho quattro qua in stazione fissi, ognuno è collegato alla sua antenna. È per quello che devo utilizzare delle bibanda, perché sennò questi apparecchi sarebbe un disastro, ho capito, dovrei avere un'antenna, tutto conta, sono già tantissime le antenne, dovrei avere, salirei a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 bibanda, cioè a 9 antenne monoband, 18 antenne, sarebbe un'esagerazione, sarebbe una foresta. E allora io mi devo notare un pochettino, ci sentiamo tra poco, se ci siete, ciao Gianfranco e ciao Claudio, mi hanno chiamato, oggi si mangia in anticipo, dai. Ok, e poi magari continuiamo dopo il discorso, Claudio, anche a te ci sentiamo più tardi se ci sei. Sì, anch'io infatti mi dovevo già allontanare da prima, non ti volevo lasciare solo. Ok, allora dai, ci sentiamo dopo. C'è sempre questo tum tum tum tum, questa portantina. Chi è che vuole entrare? Vabbè dai, ci sentiamo dopo. Saluto anche a Claudio, se mi ascolta. Ok, già ti ascolterà. Qualcuno si diverte. Ok, ciao. Vabbè, siete andati via. Vabbè. Vabbè. Sono andati a cena, qua. Io sono Giorgio, a Milano, Giorgio, andare alle 7:30 a mangiare. Piscio Maria Gerga. Io ho già mangiato, per esempio. Vabbè che io sono costretto. Lo so, ma se tu mangi anche alle 6 non ti dico niente, perché sei costretto a farlo. Ma cazzo, loro alle 7:30 mangiano. Ma quando ero 9:30 a mangiare io. E lo ti chiedo, abituato così. La mia Roberto che se n'è andato e Gianfranco lo stesso dice che già entrano più tardi. Vabbè, cosa stavo dicendo? Beh, risolto con l'antenna, stai disturbando ancora? No, mi erano saliti alle stazionare a 2:30 perché deve essere che era entrata acqua. Vabbè, è asciutta, ma così muovi il lago del Rosmetro. Quell'antenna quando piove fa quell'effetto. Anche Antonio glielo fa, solo lui c'è la corretta d'antenna sul 440, capito? Però lo fa quel tipo di antenna, ma le lettere. E paghi su gli assi da lampo. Va, come si ritiro, me la compare giù nuova e me la lampo in terra, subito. Sì. Non c'è problema, non è che bella che matta lì e tu sei a posto, no, non ti rompo le scatole nessuno. Sì, infatti aggiungi di me, devi ci condurre i vasi, devi sci, mago, faccio un QRM bauroso, mi hanno detto che la game master è un po' silenziosa, quindi sento anche quelli bassi. Sì, è silenziosa, silenziosa, non c'è problema, abbiamo una canna di resina, quindi di PVC, perciò molto, molto silenziosa. No, questa non fa, questo anche segnali a Santiago 1, io non agio QRM, c'ho QRM sempre a zero, a volte mi preoccupo, brutto, ma ho commutato bene, la radio è collegata, non si intende nulla, ora mato faccio sempre QRM a 5, a 4, a 7, quando piove non ne parliamo. Figurati. Io ho il QRM a 9, se tu non arrivavi col segnale che arrivi non ti avrei sentito. Dimmi tu, perché ci ho messo lo squelci, no? Come elimino il QRM appena, lo mollo in modo che non ho il QRM. Qui, infatti quelli bassi non li sento, se non arrivi nella manco oltre il 9 non li sento. No, vabbè, il tuo segnale è così, è quasi 9, se aumenti se lo superi il 9, quindi l'antenna già funziona, non è che è un'antenna fatta da Garda, messa in quelle condizioni, messa bene, è un'antenna che funziona, perché Marco Condor cazzo arriva fortissimo. A me mi si viene ad Eva, però, chissà da un di Marazzo chi entra. Vabbè ragazzi, buonasera. Sì, tutto a fischi, chi è? Vale, professore. Tutto a fischi, sì. Vabbè. Cosa? Vabbè. No, sei tutto a fischi, c'è un innesco. Chi sei? Ora, Franco sono. Male, quindi ho collegato male il microfono, boh. Boh, secondo me sì. Ti sento male, fra, tutto cupo, tutto a fischi, inneschi, boh. Natali, come lo senti tu? Fischi. No, c'è tutto sciatto, la fischi, fra, è collegato male. Ma che figlio, e tu che lì, Nino Spinotto, Franco, cambia il microfono. Questo va bene, dai. Vabbè, chi c'è un'altra guba? Che microfono è l'altro? Quello che sta usando in macchina, ma ci deve essere attaccato qualcosa, boh. Quindi la massa. Sono il controllo, boh. Lo provo. provato qua, sembrava giusto, i collegamenti sono come quelli dell'altro giorno che funzionava. Ho rifatto le saldature, a meno che non si sia fuso qualche filo e si è incorto. Magari sta toccando con la massa e ti fa quel difetto lì. Apri lo spinotto e lo guardi. E dai, riprendete. Controlla proprio, adesso che come ci ho dato qualche filamento sta toccando da qualche parte, perché è un innesco, capito? Perché la modulazione c'è, però ti porti appresso questo innesco. Oh via, dai, controllo di nuovo. Ehi, ehi, va bene. Quel cuocomane di Luca non si è sentito oggi. Attento, Luca cuocomane. Attento Luca cuocomane. Adesso non c'è il disco. No, non c'è, però la modulazione è sciatola, come mai? No, no, no, non è collegato bene, fra. Oppure mi sentivi bene la parola di macchina. Ma adesso c'è tutto. C'è tutto gracchiante. Gracchiante, la modulazione non è bella, non è chiara, come è quando ti senti con macchina. Vediamo lei. E via. Mettiamo. Così ho abbassato il mic again. No, no, quando schiacci è importante si sente un bip. Adesso c'è di nuovo l'innesco. Come che stai toccando col dito? No, adesso è aperto, vedi, lo spinotto era aperto. Adesso ho cambiato di nuovo il microfono. È aperto, non vedo niente. Adesso provo a mettere due paio di occhiali se vedo qualcosa di... in corso. Boh, dai, vengo subito. Devi controllare, fare c'è qualcosa che non va bene. Sono qua io, non c'è problema. Niente, ho solo mosso un po' i fili, buh. Adesso la modulazione non è molto forte, però l'innesco non c'è più. Adesso c'è invece? Sì, adesso c'è un'alternata. Oh, non sto toccando nulla, Certo, non stai toccando nulla, qualcosa stai toccando. Vedi che è tornato quell'innesco. Così? No, adesso scende nuovo male, però qua sta crescendo bene. Sto muovendo il filo, ora. Allora il filo, controllalo perché il filo. È tutto aperto, cioè non vedo lo spinotto, sono tutti attaccati bene, i fili non si toccano. Ma c'è qualcosa che non va, c'è un innesco sotto. Un innesco che ti copre la modulazione. Cioè, dicevi qua prima volta, cioè io gli ho segnato tutto il cablaggio, andava bene, poi cioè, si è attaccato però qualche cosa, perché lo spinotto dove stringe il cavo è un po' largo, quindi ho detto ma gli metto uno spessore, no, un po' di vulca, qualcosa, e poi lo stringo per non tirare il cavo, per non forzare il cavo. Oh, non ha più funzionato. Si è rotto il cavo dentro e quindi c'è tocca non tocca, ma c'è qualcosa sul cavo. Ci ridiamo proprio, sto già pazientendo. Vale così, io ho un paio di microfoni lo stesso che mi creano questo problema, li ho presi, ho messo anche l'armadio, mi ha tolto le batterie, le ho messe a parte, gli stavi andando dai detto, ma ecco, sono microfoni di baracchini che non uso, non me ne frega niente. Ma se ieri funzionava con le stesse connessioni, perché non deve funzionare adesso? Non è che ho messo la batteria, ho portato un po' all'interno, eh? Prova a mettere la batteria fuori. Stai attento, a volte lo fa anche l'innesco, quella 9 volt c'hai. Stai attento a come la metti con la batteria, perché se tocca l'attacco alla batteria, la caccia ti fa quel problema. Prova a mettere un po' pezzettino di nastro, lì c'è la batteria. Com'è? Prova a vedere. 1, 2, 3, prova. Sembra che vada, però all'inizio esce un fischio, poi non sparisce. Lo sentivo anche poco fa nell'altro apparato, dai. Sempre male? No, questo passaggio è bene. E ho mosso cavolone. Smette, così c'ho la mano vicino. Praticamente quando metti la mano sopra il microfono l'innesto non c'è più, così è. No, adesso ho la mano sul filo, vicino allo spinotto. Adesso lo so. Mascia. C'è qualcosa nello spinotto allora, lì. Tu non lo vedi, ma c'è. Così tocco il filo. Lo riesce bene? Sì. Se togli la mano c'è un innesto pazzesco. Il filo non lo sto muovendo. Io avevo già lampato la bacone, te lo dico pappale. Ieri, come perché ti ho detto il cavo dove stringere il bitine, diciamo, dove stringere il bitine che tiene il cavo principale, era un po' lento, ne stavo uscendo il cavo fuori e allora si era staccato qualche, però siccome me lo segnate le connessioni, oggi l'ho sistemato tutto, ho rifatto le saldature e ha smesso di funzionare. No, a volte dobbiamo lasciare tutto così come non c'è niente da fare. Ma purtroppo il filo si è attaccato, a parte che è molto rigido e corto, quindi sicuramente un po' l'ho tirato ieri e si è staccato, ma ripeto, le connessioni le ho fatte uguali, me le ho segnate proprio numero per numero, appena le ho trovato la combinazione giusta le ho segnate, ho le originali e poi quelle che ho modificato, dai. E come mai allora fa questo difetto? Non lo so più, non lo so. Da tagliare un pezzo di filo e provare a rifarle. Prova, sei fortunato, magari, ma cosa è spiralato o il capo normale? No, spiralato, è un po' rigido, è duro, non è morbido. Pagisce, quando trovi lo spiralato rigido vai a tirare e ti si rompono i fili all'interno. La provo, anzi mi sa che no. Lo provo un altro giorno, non si sa, non c'è più canava. Ti ho detto, per me mi avrei già aperto la finestra, sarebbe lampato da abbassi. No, non ne ho pazienza a fare queste cose. Ma te l'ho detto, c'ho due microfoni eccezionali, uno lo sta innesca, l'altro fischia, li ho presi, tolto le batterie e messi dentro l'armadio, adesso ci rimangono anni lì dentro. Non ne ho più voglia di stare a pensare se funziona, se non funziona ci abbia le luci. Ma deve funzionare, no? È sicuro deve funzionare, fra, sicuro. Però se non riesci a farmelo funzionare, cosa vuoi che ti dica? Mettici più impegno, controlla bene, taglia, rifatti bene le connessioni, stringi bene lo spinotto, quando lo stai chiudendo controlla che non tocchi. È un problema di massa lì, se tu metti la mano nello spinotto e non si sente più l'innesco, c'è un problema sullo spinotto o sul cavo, non lo so. Ma senza toccare i fili, è solo la gomma, tocco appena la gomma, quindi è quello che mi sembra strano. È meglio ancora, se tocchi la gomma vuol dire che c'è qualche filamento o rotto. E come la tocchi magari vai a pressare e la fai toccare, capi? Taglia lì dove stai toccando, taglia e rifai la connettore, connettore nuovo, io lascio qua. No, non ne vogliamo, grazie Alex. Non può, lei ora di mangiare, no? Meglio a mente, fresca. Infatti non sono manco il cotto, fra un po' è ora di cena. E vabbè, domani con calma te l'ho fatto, ricordati dove toccarmi, tagli e rifai la connessione nuova, può darsi che sei fortunato, quel problema era lì. Quindi adesso si è staccato anche un filo, come ho, come sto sempre muovendo, si è staccato il rosso. Vedi, che allora non hai fatto un bel lavoro. No, vabbè, a pure rimuovere destra e sinistra, ci sono fili sottili, si deve essere tagliato, capito? Vabbè, saldalo meglio, fallo meglio, ma deve essere fatto bene. Piano piano, taglia e lo rifai. Allora, qua è tutto taglia e cucce. Allora, taglia e cucce. Gappa gappa, già sta funzionando bene la mia. Beh, io ti ho giocato. E il gallo di Rizzi ti ha pigliato una roba di mangiare i cristiani, boh, ci hai butti poco di soldi. E li tirano a partire da un uomo a tirare a chi invece, e prendi un bel 140 con l'MC60 e finito di soffrire. Anche lineare ci butti. Vedi, avvisami se trovi una bella, una buona, mi stanno già chiamando, dai, ci sentiamo, se dopo ne ho voglia, sono pazienza, dai, a domani. Ma lo sentiranno, lì da baciare i volti. Ciao, un abbraccio fra. Saluto Anna, a parte nostra, già ci aggiorniamo, c'è qualcosa ti avviso. Ma non è finito di soffrire, metti lì e ciccia, ciao. No, ho preso solo per la macchina, questo già va bene. Cioè, sono abbastanza soddisfatto di questo. È che in macchina volevo una spinta in più. Quindi ti fai un impiantino bello in macchina. Lineare, baracchino, antenna ce l'hai e tu sei a casa, ti metti una radio così, almeno sei sicuro che non ti crea problemi, così hai anche i baracchini. Hai ragione. Dai, un abbraccio a tutti lì in casa, da parte nostra. Buona cena, buon tutto. Ciao, fra, contraccambiato, ci aggiorniamo, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ora, c'è qualcuno sul 10? Ciao a tutti i figli. A me, Gianfranco, beh, tutto fatto, no? Io ho mangiato veloce diciamo, non abbastanza veloce, poi ho fatto un mandato una mail che avevo dei problemi e non ci sono riuscito, me l'ha fatto il mio genero ed è stato tutto fatto, adesso sono libero. Tu hai già mangiato? Sì, anche ho già mangiato. È una roba abbastanza veloce, dai, non è che avevo tanta fame, però almeno ci nutriamo ogni tanto. Quindi tu c'hai anche la 510 di antenna, Gianfranco? Beh, per dire, però ne avevo due, una me l'ha smasciata, la tempesta, ecco, e mi sono dimenticata di aggiungere all'elenco delle riparazioni. Di norma nelle 510 si spezzano i cosi, i PL, no, vengono danneggiati, o meglio PL, c'hanno gli N, che sono delicatini, mentre invece, ecco cosa c'ho, boh, non lo ricordo più. Ma è così delicata, anche Fabrizio mi stava dicendo, Marco, anche loro le hanno spaccate queste antenne. Ma guarda, ascolta, secondo me c'è il tipo che quando ci sente, che noi diciamo le prime X7000 mi ha fatto 20 anni, sempre funzionando perfettamente, e allora quello subito si incazza e dice 20 anni, e io a chi le vendo le antenne? E quindi dice, sì, iniziamo a mettere il PL che non resiste, le giunture che prendono acqua, e cose di questo genere, perché se no non si spiega. Non sento altro che 500 che diamo, poi non c'è marca, sono tutte uguali. Le ultime che ho visto e fatte ancora a vecchia maniera sono le Comet, però costano uno sproposito, l'X, tu pensa che l'X 300 che ho preso costa quasi quanto la, una 510 della cosa lì, della Diamo. Ma fa anche la X700, visto, è ancora più grande. Sì, io ce l'ho a 7000, che sarebbe quella che fa anche 1200. Purtroppo quella dopo tanti anni mi è caduta quando la stavo ripiazzando, perché mi ha spezzato il palo praticamente, cioè o meglio lo staffer, proprio mi ha staccato, è caduta sul bordo e l'ho spezzata in due, l'ho riparata, però dentro era tutta marcia, ma quella ha fatto roba di 30 anni. Ma non è in corso, in resina l'antenna, quella si forma dello smusi, prende il colpo, come fa a marcirsi la vetroresina? No, la vetroresina non marcisce, marcisce quello che c'è dentro, gattone. Devi sapere che anche i tubi, anche le canalette, ad esempio, che io ho sottoterra, in realtà sono piene d'acqua. E quindi se devo fare delle, come ha fatto, dei percorsi molto lunghi, di 30 metri, 35 metri e così via, questi fili in ogni caso saranno sempre sott'acqua, perché gli sbalzi termici fanno questo gioco, fanno vapore acqua, fanno tutte queste cose, tutti i avanti, mi sono spaventato perché la macchina adesso parte, cioè parte nel senso che mi devo cambiare il cruscotto, e la macchina chiusa, era tutto bagnato, cioè il cruscotto, la macchina chiusa, il vetro, non ne parliamo. Ma tu mi hai parlato la 1200, perché c'è qualcuno che va su 1200? All'epoca nostra sì, c'avevo quello dell'Actinfo, del Tribanda, che andava a VHF 1200, bellissimo apparecchio, costosissimo, adesso è una cosa da museo. Ho fatto anche tanti esperimenti con Walter, arrivava anche Alghero, altri tempi. No, dico che, scusa, mi sono detto un attimino prima, qualcuno che trasmette 1200? Non te lo so dire, non è popolata, diciamocela tutta, essendo molto ottica, praticamente se ne sono esclusi tutti quelli che sono nelle zone basse, quelli che non possono mettere antenne molto performanti, anche se poi basterebbe una piccola direttiva per avere un guadagno notevole, però è così. Scusa, questo 2000 c'è anche l'opzione di mettere la scheda nel 1200, no? Sì, ci sono dei modelli che c'erano questa opzione, però costava patrimonio. Quando è uscito il 2000 costava qualche migliaio di euro, no? Siamo su, adesso non me lo ricordo perché è passato tanto tempo. Ti posso dire solo una cosa, che se poco sbagli, perlomeno con gli apparati di cui parlo io, con quegli apparati lì, se sbagli e dici senza antenna, boh, basta, è chiuso, fa puff. Ma lo immagino, non ha nessuna, la cosa brutta di questi apparati qua, non hanno una protezione per il rosso, per dire, un amplificatore domestico, parliamo amplificatori hi-fi, se tu sei prima, vabbè, non ce l'hanno tutti, però quelli di un certo livello, quelli di uso gravoso, hanno la protezione e mancanza di carico, non succede niente, ci sono le protezioni e intervengono, fanno una specie di diagnosi, ci sono le relè e commutano. Questi cavolo di apparati, questi HF invece non hanno nessuna protezione contro rosso alto. I tuoi magari, i miei no, i miei ce l'hanno, sia all'intera, addirittura possono trasmettere con livelli stazionari la paura e reggono, a meno che non lo tieni mezz'ora senza antenna in trasmissione. E gli HF hanno l'allarme, te lo segnalano ovunque. E tutti quanti, lo stesso anche quello Motorola, c'ha l'allerta stazionaria, la prima cosa che fa è ti riduce subito la potenza e poi ti esce anche la scritta. Il 440 credo che c'è, se non c'è antenna non dovrebbe trasmettere, mi sembra. Sì, probabilmente perché si brucia. però il 140, io avevo un 140 tempo fa, quello lì c'era il rosso altissimo, questo lo facendo Contex e l'ha bruciato. Dipende anche da quanto lo fai scaldare, non sono come gli apparati usati per le telescriventi che sono belli robusti, perché quando vai in telescrivente trasmetti per qualche ora, è ovvio che anche perché la telescrivente sottopone